Ho capito, ma l'Abruzzo è un peso morto. L'Abruzzo, lei ha detto, è un peso morto. Ma l'Abruzzo fa parte del centro-sud e tutto questo centro, da Roma in giù è tutto un peso morto, parliamoci chiaro. Quindi l'Abruzzo non fa eccezione. Adesso mi spiace che ci siano i parenti delle vittime del terremoto in mezzo a questo discorso, ma allora non si può più parlare di niente. Allora, se noi da questo punto di vista dobbiamo parlare sempre bene di tutti gli africani, perché in Africa c'è gente che muore di fame, ecco, e questo non mi impedisce al Parlamento Europeo di dire che se c'è razzismo oggi è in Africa contro i bianchi, e io parlo chiaro. Scusi un attimo, perché che lei parli chiaro non c'è dubbio.